Giovedì 1 novembre del 2012, 87.900, la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa. Siamo all'appuntamento con il cinema Visionari ogni giovedì dalle 14 alle 15 e per saperne di più le informazioni le trovate sulla scaletta, sul sito internet della radio www.ondarossa.info e lì troverete gli ospiti della puntata, le uscite in sala di ieri, mercoledì 31 ottobre, le nostre indicazioni, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti in giro per l'Italia tra festival e rassegne per questa settimana e poi il link per riascoltare la puntata precedente e tutte quelle del 2012. Allora, siamo in collegamento con Daniele Vicari, regista del documentario La Nave Dolce, che oltre a uscire in sala giovedì prossimo 8 novembre sarà presentato in anteprima al Teatro Valle Occupato qui a Roma il martedì 6 novembre. Intanto Daniele, ben ritrovato. Grazie, grazie, buon pomeriggio a tutti. Come stai? Bene, bene. Allora, ci siamo visti anche alla proiezione stampa, i complimenti già te li ho fatti, e, mi sembra poi per quanto riguarda l'iniziativa di martedì che sia una serata piuttosto interessante e articolata, ci sarai tu con il documentario, ci sarà Ascanio Celestini che leggerà delle cose e ci sarà anche un breve documentario che racconta l'interno del CIE di Ponte Galeria, in nome del popolo italiano, dovremo sentire gli autori tra poco. Cominciamo con il tuo lavoro, La Nave Dolce, ne avevamo parlato anche a proposito della presentazione veneziana, raccontacelo un po' in breve il progetto, anche per chi ci ascolta e vuole saperne di più. Ma l'8 agosto del 1991, alle 5 del mattino, al porto di Bari, arriva una nave talmente carica di persone che gli italiani che erano sul molo, i poliziotti, le persone che lavoravano nel porto, che la attendevano ormai in qualche modo perché si era già sparsa la voce che questa nave stava per arrivare, rimasero senza parole perché su questa nave c'erano 20.000 persone aggrappate in ogni modo sulle sovrastrutture della nave. Questa vicenda credo che in qualche modo la ricordiamo un po' tutti, almeno quelli che anagraficamente possono averla in qualche modo vissuta attraverso la televisione nel 1991. Soprattutto però ricordiamo l'arrivo di questa nave, tutto quello che è successo dopo è avvolto diciamo nelle nebbie del tempo e di una memoria che un po' vacilla. Invece quello che è successo dopo è veramente una storia straordinaria. Allora Daniele, su questo ci torneremo perché mi riguarda anche direttamente, nel senso che è proprio fa il caso mio. Io ricordavo dell'arrivo, ma di tutta la gestione poi della vicenda i ricordi si affievoliscono, complice anche l'informazione che ha accompagnato l'evento. Allora, partiamo anche dal titolo, che ha una doppia lettura, questa nave dolce. Sì, questa nave che si chiamava appunto Volora era un cargo molto grande, costruito in Italia all'inizio degli anni 60 e comprato dall'Albania, che praticamente era la nave diciamo più importante in possesso dell'Albania, faceva da spola tra Cuba e l'Albania portando zucchero e poi tornando indietro dall'Albania a Cuba portava medicine, medicinali, macchinari e così via. E era attraccata al porto di Durazzo e siccome alcuni mesi prima, parliamo cioè del febbraio del 1991, erano stati assaltati dalla folla alcune piccole imbarcazioni, medie anche, non solo piccole, e queste imbarcazioni erano state utilizzate per arrivare a Brindisi, erano state prese delle precauzioni da parte delle autorità albanesi, i porti erano presidiati dall'esercito. E quando si sparse la voce che questa nave era attraccata al porto di Durazzo e che era molto vicina, raggiungibile, si radunò una folla gigantesca che vinse la resistenza dei militari e questa folla salì sulla nave e costrinse alcuni di queste persone, tra l'altro alcuni militari che dovevano presidiare il porto, sì, si unirono a questa folla e minacciando e anche ferendo il comandante di questa nave, Milaci, si fecero portare in Italia. Ecco, dicevi prima dei ricordi che riguardano soprattutto l'arrivo di questa nave stracolma, ma poi il problema e la cosa più grave è stata la gestione di questa emergenza e poi alla fine il respingimento di questi migranti ha rappresentato storicamente, per quanto riguarda il nostro paese, il più grosso respingimento di massa e ha dato poi l'avvio a tutte le politiche che sono seguite negli anni successivi. Sì, questo episodio sancisce la nascita della politica, diciamo così, dei respingimenti, ma anche della politica securitaria che in qualche modo ha caratterizzato l'Italia in questi ultimi 20 anni, perché sulla paura, sulla pelle, diciamo, degli albanesi, urlando a dagli all'albanese sono nati delle formazioni politiche, per esempio la Lega Nord, da lì a pochi mesi tutte le leghe regionali si uniscono, nasce la Lega Nord nella primavera inoltrata del 91 e nasce proprio con parole d'ordine che hanno a che fare con respingimento, cioè con ciascuno a casa propria. E questa però quello che è successo a Bari è in qualche modo ancora più grave di questo fenomeno, che all'inizio era quello della paura, diciamo, degli immigrati, era un fenomeno, diciamo, strumentalizzato, ma ancora tutto sommato, diciamo, gestibile, perché ci fu una crisi istituzionale, perché il sindaco di Bari, democristiano Enrico Dalfino, pensava di avere il dovere di accogliere queste persone in un modo civile, costruendo una specie di tendopoli tipo da protezione civile e poi in qualche modo intervenire anche curando queste persone, perché il viaggio era stato anche duro, c'erano molti bambini, molte donne incinte, insomma una situazione difficile da gestire. Invece il governo centrale, all'epoca c'era Andreotti al governo e come Presidente della Repubblica c'era Cossiga, il governo centrale e il capo dello Stato decisero di attuare un respingimento di massa e imposero, diciamo, si può dire quasi, mano militari, sì, una deportazione vera e propria di queste persone, che dal porto furono portate dentro lo stadio della Vittoria, furono chiusi dentro e lì ci sono stati 4-5 giorni veramente incredibili, cioè che sono dei giorni che fanno veramente paura, no? Perché anche è stato, diciamo, lo stadio ermeticamente chiuso, circondato da militari. Sotto il sole, tra l'altro. Sotto un sole cocentissimo, perché faceva veramente molto caldo, senza in qualche modo poter fare nulla per queste persone se non tirargli il cibo dagli elicotteri. Queste persone, per accaparrarsi il cibo, migliaia di persone si cominciarono a ferirsi, ad attaccarsi tra di loro, insomma venne fuori un disastro, e poi questo disastro ingestibile si concluse con un respingimento di massa, le persone vennero messe su navi e su aerei militari e rispedite in Albania. Mm-hmm. Quello che poi è successo in Albania è un altro film molto grave, una storia terrificante, a queste persone furono punite, diciamo, da tutti i punti di vista dalla teoria albanese. Io questo non lo racconto perché veramente sarebbe stato un film infinito, sì. Però tutta la vicenda che riguarda l'Italia è una vicenda fondativa, diciamo, della politica italiana degli ultimi 20 anni. Mm-hmm. Tra l'altro poi di questi 20.000, secondo i dati che riporti alla fine nei titoli di coda, più di un migliaio riuscirono comunque a far perdere le proprie tracce prima del respingimento, quindi comunque... Sì, erano talmente tante le persone che era impossibile controllarle tutte, no? Sì. La polizia ha avuto delle grosse difficoltà, tra l'altro la politica, prendendo una decisione del genere, ha scaricato sulla polizia una responsabilità enorme, no? Questi poliziotti, che non erano nemmeno moltissimi all'inizio, erano 4 gatti, non riuscivano a tenere sotto controllo un fenomeno così ampio. Per cui vennero subito fuori scontri, prima al porto, poi davanti allo stadio. Fu una situazione molto molto complicata. Sì, poi intervenne anche l'esercito, insomma. E poi dovette intervenire l'esercito perché, appunto, che è una cosa molto particolare l'intervento dell'esercito per una questione di ordine, sì, pubblico, sì, no? Sì, sì. Dovette intervenire l'esercito per cinturare lo stadio e tenere sotto controllo una situazione che poteva esplodere da un momento all'altro riversandosi sulla città. Quindi tutta questa vicenda in qualche modo era il segno di una ormai quasi imminente crollo della politica nazionale, perché da lì a l'anno successivo è stato l'anno di Tangentopoli, no? Sì, nel 92 è iniziata la frana dei grandi partiti politici della Prima Repubblica, le istituzioni cominciano a vacillare e insomma l'arrivo della nave fu un pugno nello stomaco di un paese che si riteneva immune dal crollo del muro di Berlino, sì, invece sì. Il crollo del muro di Berlino travolse anche noi. Ecco, la caratteristica cronachistica del tuo lavoro mette in evidenza sia questo contrasto tra la politica locale e la politica nazionale, evidente poi soprattutto nella conferenza stampa in cui prese la parola sia Cossiga che il sindaco della città, ma anche nella gestione, per cui della gestione dell'evento, per cui disorganizzazione completa e poi violenza, la violenza sia della deportazione che dei respingimenti. Volevo chiederti, Daniele, tu hai realizzato diverse interviste ai protagonisti di allora, ecco, come è stato il lavoro da questo punto di vista? Ma Antonella Gaeta, che è stata la ricercatrice e sceneggiatrice del film insieme a me e a Benny Adria, vivendo a Bari ha cominciato a fare una sorta di porta a porta. Aveva conosciuto per caso un ragazzo che lavorava in una pizzeria a Bari, che diceva che le aveva detto di essere arrivato con quella nave, e da lì piano piano ha cominciato a fare un po' la catena di Sant'Antonio, no? Sì. E ha cominciato a scoprire e rintracciare una quantità molto alta di persone, perché poi alcuni di questi 19.000 che furono rispediti indietro, negli anni successivi, in un modo o nell'altro, molti di loro arrivarono comunque in Italia, sia clandestinamente che regolarmente. Insomma, per esempio, questa è la storia di Cledi, no? Il ballerino conosciuto un po' da tutti, sì. Che poi in Italia ha fatto la sua vita artistica e lavorativa. E questo metodo di ricerca, diciamo, sul territorio poi ha pagato, perché noi cercavamo non tanto e non solo testimoni di quell'evento, ma persone capaci di raccontare, sì. Perché i veri narratori di questo film, il vero narratore non sono io, sono loro che si raccontano mettendosi a nudo, raccontando anche le proprie paure, le proprie difficoltà, no? E quindi avevo bisogno di persone veramente, come posso dire, che avessero la voglia di mettersi in gioco. Daniele, allora ricordiamo questo doppio appuntamento, intanto con l'anteprima al Teatro Valle Occupato la sera di martedì 6 novembre, immagino che interverrai anche tu, e poi sì, l'uscita in sala giovedì 8 novembre. Sì. Ci vediamo al Teatro Valle anche con Ascanio Celestini e Gabriele Del Grande e Stefano Liberti, che sono gli autori dell'altro lavoro che dovremmo sentire tra poco. Sì, volevo solo aggiungere questa serata è organizzata dall'associazione A Buon Diritto, no? Che in occasione della presentazione del suo rapporto sugli arrivi a Lampedusa. Il rapporto è intitolato proprio Lampedusa non è un'isola. Celestini, dopo la proiezione del mio film, leggerà alcuni estratti di questo rapporto. Ci tengo a dirlo, perché la serata è proprio, diciamo, una serata volta anche a sensibilizzare su le persone in merito a questi temi, ai temi dell'immigrazione, diciamo, abbondantissima, che ormai caratterizza ogni giorno le nostre coste meridionali. Sì. Daniele, un abbraccio, a martedì. A martedì, grazie a tutti e buon pomeriggio. Ciao. Daniele Vicari, regista del documentario La Nave Dolce. Per contattarci, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, per gli sms in diretta il numero è 342-357-4357. Proseguiamo. È con noi Andrea Legni, regista del documentario Kosovo vs Kosovo, che sarà programmato al Nuovo Cinema Palazzo qui a Trastevere, a San Lorenzo, qui a Roma, il 5 novembre, che se non sbaglio è lunedì. Andrea, intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, Il Kosovo, cosa è successo dopo la guerra in Kosovo? Allora, cosa è successo dopo la guerra è un discorso sicuramente molto, molto lungo. Quello che abbiamo cercato di raccontare nel documentario è essenzialmente un aspetto dei tanti successi in Kosovo dopo la guerra, cioè il modo in cui ancora vivono e si organizza la minoranza serba in Kosovo, che sono circa 150.000 persone, oggi erano molte di più prima del 99, 300-350.000. E abbiamo cercato, diciamo, di fare un viaggio appunto attraverso le zone serbe del paese, che sono dal 99, a partire dalla guerra del 99 ad ancora oggi, delle enclave monoetniche sparse per tutto il territorio, specialmente alla periferia delle grandi città, dove i serbi si organizzano e cercano di continuare ad essere uno Stato dentro lo Stato, non riconoscendo il nuovo Stato indipendente, cercano di fare come se non esistesse in pratica. Per cui, diciamo, abbiamo cercato di raccontare questa realtà sia da un punto di vista politico-amministrativo, cioè proprio cercando di andare a vedere come tecnicamente è possibile questa organizzazione dell'enclave, dove i cittadini eleggono per esempio dei sindaci riconosciuti solo da loro stessi in elezioni non riconosciute né dallo Stato centrale del Kosovo né dalle istituzioni internazionali, e boicottando invece le elezioni kosovare regolari, e continuano ad utilizzare la propria moneta, il dinaro serbo, mentre in tutto il resto del paese, appena usciti fuori dall'enclave, non vale, non viene accettato perché viene usato l'euro, e continuano ad avere tutta una serie di infrastrutture, tra cui scuole e ospedali, che funzionano in modo indipendente dallo Stato kosovaro, con personale serbo su programmi serbi, con personale stipendiato direttamente da Belgrado, che continua a finanziare, diciamo, queste realtà. Mm-hmm. E dall'altra parte abbiamo cercato, forse soprattutto, di dare voce agli abitanti di queste zone, certo, che poi alla fine sono quelli che raccolgono sulla loro pelle i frutti delle scelte che si sono fatte sia a livello internazionale nel 99 e dopo, e della contrapposizione politica tra Serbia e Kosovo. E per cui abbiamo cercato, più che di intervistare politici, esperti e quant'altro sulla questione politica, che comunque ci sono, perché ci sembrava comunque importante dare un quadro anche politico, contestualizzare un attimo la situazione, abbiamo cercato di passare buona parte delle 3 settimane che abbiamo vissuto in Kosovo condividendo un po' la quotidianità delle persone che abitano queste zone, che è una quotidianità molto dura, nel senso che la prima cosa che balza agli occhi arrivando dall'estero è l'assenza pressoché totale di libertà di movimento. Per esempio, noi abbiamo passato parte del nostro soggiorno in un enclave che si chiama Gorazdevas, che è a 4-5 minuti da Pejapec, a seconda di albanese o serbo, come la si vuol dire, che è la quarta, quinta città principale del Kosovo. E però gli abitanti di Gorazdevas, che sono serbi, anziché andare a Pec, prendono il pullman la mattina, fanno 70-80 km da andare, altrettanti a tornare, per andare a Mitrovica Nord, che è l'unica vera realtà urbana a maggioranza serba del Kosovo, anche solo per fare la spesa o per andare dal medico o per ritirare la pensione che ricevono dalla Serbia. E questo perché ancora non esiste quel minimo livello di fiducia interetnica che permetta di andare in una città albanese, sentirsi libera di parlare la lingua serba e sentirsi al sicuro da aggressioni che magari succedono un po' di meno rispetto al passato, però ancora sono all'ordine del giorno, diciamo. Per cui c'è tutta questa realtà di quotidianità vissuta molto, molto difficile. Ecco, due sono, Andrea, secondo me gli elementi portanti del vostro lavoro, almeno quelli che mi hanno impressionato maggiormente. Da una parte l'ostilità e gli atti anche di violenza nei confronti di questa minoranza, e dall'altra i paradossi che comporta una situazione del genere, per cui c'è anche una piccola cittadina che ha due sindaci, uno riconosciuto dalla Serbia e l'altro dal Kosovo, entrambi tra l'altro di etnia serba. Sì, esatto. Quella è una cittadina che si chiama Klokot, che è un enclave alla periferia anche dello stesso Kosovo, cioè in una zona completamente rurale, quasi ai confini con la Macedonia, che è stata scelta, diciamo, come noi quando siamo arrivati in Kosovo ce ne parlavano come dell'esempio virtuoso i politici kosovari, no? Perché secondo la Costituzione propria, secondo il piano stabilito dalle forze internazionali, perché poi di fatto, anzi, anche se indipendente, di fatto indipendente tra mille virgolette il Kosovo, perché è ancora un protettorato internazionale, di fatto è presente l'ONU, è presente l'Unione Europea attraverso una missione propria che si chiama Eulex, è presente la NATO e tutto il resto, e ci hanno parlato di questa realtà di Krokot come esperimento di decentramento amministrativo, cioè una cosa che il Kosovo sarebbe tenuta a riconoscere a tutte le zone serbe, però in realtà non viene fatto. E però poi in realtà, andando appunto in questa città, ci siamo trovati una realtà completamente diversa da quella che ci viene raccontata, cioè sì, esiste un sindaco riconosciuto dal Kosovo, però serbo anche lui, e che però di fatto ha un'autorità molto limitata sul territorio, perché comunque i serbi continuano a eleggere un proprio sindaco, e per cui ci sono questi due sindaci, che ognuno dei quali dice di essere il sindaco legittimo, e ognuno di quali ha un'autorità su una parte molto limitata. Quello serbo si occupa di più appunto di tutte le infrastrutture che dicevamo prima, che sono quelle che regolano quotidianamente la vita dei serbi in Kosovo, e l'altro di tenere un po' i rapporti istituzionali e di cercare di vendere all'estero, tra virgolette, questo esempio che serve per far vedere un po' come il Kosovo sia questa realtà multiculturale, tollerante verso le minoranze, una cosa che insomma poi è vera molto molto in parte. E sì, e poi i paradossi, perché appunto poi al di là di quelli che sono le propagande nazionaliste che poi esistono da ambedue le parti, cioè secondo i politici kosovari, i serbi in Kosovo non sono altro che degli invasati che vogliono boicottare lo Stato, mentre d'altra parte magari anche da Belgrado vengono visti un po' romanticamente, secondo come gli ultimi difensori della serbità del Kosovo, eccetera. Al di là di queste categorie, diciamo, un po' stereotipate, c'era appunto quella che dicevamo prima, la realtà delle persone che poi si trovano a dover convivere in un sistema molto duro, per cui i serbi si boicottano lo Stato kosovaro, però a un certo punto si trovano anche obbligati a prendere i documenti di questo Stato, sì, perché se no la polizia li ferma e magari li tiene per un giorno in commissariato, perché se no non possono aprire un conto in banca per mille ragioni. E d'altra parte anche gli albanesi kosovari finiscono a richiedere i documenti serbi, perché comunque ancora le possono fare, perché siccome secondo la Serbia il Kosovo è Serbia, allora anche gli albanesi possono richiedere i documenti serbi. Certo. E anche se non lo dovrebbero fare, lo fanno, perché avendo il passaporto serbo è possibile ottenere un visto per andare per esempio a lavorare in Europa, perché poi dal Kosovo tutti cercano, sì, più o meno, sì, di scappare, sì, specialmente i giovani. Non solo serbi in realtà, anche albanesi, perché non c'è lavoro, perché non ci sono prospettive, perché si sono buttati miliardi con ONG e quant'altro, però tutti in progetti di emergenza, non so come dire, però non si è fatto niente per ricostruire quelle che erano le infrastrutture produttive del paese, no? Mm-hmm. Per cui c'è una disoccupazione veramente che fa spavento. Sì, sì, si parla del 70% secondo gli indicatori internazionali. Probabilmente un po' di meno, perché poi tanti vivono in quella zona grigia fatta di illegalità, traffici, perché poi il Kosovo nel dopoguerra è diventato un po' il centro di passaggio internazionale di ogni tipo di merce illegale che arriva in Europa, da traffico di organi, armi, prostituzione, droga e quant'altro. Sì, sì, sì, sì. E per cui sì, si crea questo sistema paradossale dove la gente cerca di sopravvivere come può, e magari poi nel segreto della vita privata cerca di prendere il meglio di quello che riesce per cercare di vivere, certo, con, certo, un minimo di dignità e di libertà, tra virgolette. Allora, il lunedì 5 novembre ci sarà la presentazione al nuovo Cinema Palazzo di Kosovo versus Kosovo. Poi per quanto riguarda il documentario in sé, in rete, avete un vostro sito di riferimento o comunque ci sono in previsione altre date di proiezione? Sì, allora, lunedì sarà alle 21:30 al Cinema Palazzo, la prima nazionale. E poi sì, comunque continueremo a presentare il documentario in proiezioni pubbliche, in quanto poi si tratta di un lavoro completamente autoprodotto e anche distribuito dal basso con il supporto di una casa di produzione indipendente che si chiama SMK Video Factory, che si occupa appunto di reportage e documentari indipendenti da varie zone del mondo. E facciamo tutta questa serie di produzioni indipendenti appunto da una parte per distribuire il nostro lavoro, dall'altra anche per cercare nel nostro piccolo di aprire nuovi spazi di discussione, perché poi è quello che ci piacerebbe fare, cioè cercare di alimentare un po' di discussione su questa realtà che è un po' dimenticata, insomma. Per cui, insomma, sì, saremo a Roma il 5, poi a Bolzano l'8 e poi saremo a Latina, a Ferrara, insomma, abbiamo già diverse date. Abbiamo un sito internet che è www.kosovoversuscosovo.comoi.com, un po' difficile, o se no la pagina Facebook è più facile da trovare, basta scrivere Kosovo versus Kosovo nel motore di ricerca interno e lì è aggiornato, ci sono tutte le date, le modalità per richiedere una copia, perché abbiamo fatto anche DVD che è distribuito con licenza Creative Commons libera ed è richiedibile tramite una sottoscrizione per chi vuole, insomma, per cui tutte le informazioni si trovano poi in rete. Bene, Andrea, un abbraccio e un in bocca al lupo. Grazie mille a voi. A risentirci presto, ciao. Grazie, ciao. Andrea Legni, regista del documentario Kosovo versus Kosovo. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per la posta elettronica visionari@ondarossa.info. In collegamento con Luca, uno dei curatori del progetto Moving to Gaza. Luca, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, raccontaci un po' di questo progetto. Allora, questo progetto nasce un po' come tutti i progetti di teleimmagini che è il collettivo che lo propone. Cioè, siamo andati a Gaza e ci siamo mischiati con le dinamiche sociali giovanili che trattano il cinema e non solo, e siamo partiti con il progetto di Corum e di Victugazza, che era un progetto che mirava a portare dei media attivisti e non solo a Gaza per riprendere, insomma, il lavoro che stava facendo Vittorio Arrigoni. Sì. E quindi portare avanti un lavoro sulla comunicazione fatta dal basso e partecipata, e mentre eravamo lì con i ragazzi a fare il solito lavoro che una volta facevano i media attivisti, cioè raccogliere informazioni, riportarle, racconti di prima mano, raccogliere le voci delle persone che erano lì sul posto, i ragazzi che abbiamo incontrato ci hanno chiesto: ma perché al posto di fare un documentario su questa esperienza non raccontiamo l'esperienza di Gaza e il vivere a Gaza attraverso una fiction? A noi ci è sembrata un'idea estremamente interessante, perché, come ci hanno fatto notare loro, su Gaza di documentari che raccontano, come dicono loro, le nostre tragedie, ce ne sono tantissime. E noi vorremmo fare un film che abbia quindi un respiro più ampio, che racconti i sogni, i desideri di una cultura giovanile che troppo spesso è nascosta, cancellata dal sistema dei mainstream, che ogni volta che parla della Palestina parla di bombardamenti, di sofferenze, e quindi l'espressione culturale, artistica e quindi emotiva di queste persone non trova spazio. E quindi siamo rimasti molto colpiti da questa proposta di fare una fiction, perché fare una fiction a Gaza con prodotte ci sembrava un'idea un po' avventata, un po' difficile da realizzare. Proprio per questo l'abbiamo fatta nostra e l'abbiamo sposata come idea. Il primo gruppo è partito a giugno dell'anno scorso ed è stato giù un mese, e quattro nostri amici del collettivo Teleimmagini, che è il collettivo che produce, che coproduce questo progetto, è sceso a Gaza ed è ritornato a mischiarsi con le realtà giovanili e ad ascoltare, a sentire racconti e a parlare di cinema. È stato molto interessante perché ne è venuta fuori una vera e propria discussione su quello che è il cinema e su quello che il cinema ha la possibilità di fare per distruggere un po' questa costruzione che i media fanno dei paesi in guerra, nello specifico del paese come la Palestina. Mm-hmm. E quindi, muovendosi insieme a questi ragazzi delle culture un po' più giovanili, gente che fa hip hop, gente che fa il surf, gente che insomma vive una quotidianità un po' sui generis a Gaza, perché cerca semplicemente di vivere una normalità. Sì. E quindi di avere sogni e desideri. Seguendo queste persone mi è nata l'idea di raccontare la loro vita in presa diretta, e quindi l'idea è che è uscita fuori non è scrivere una sceneggiatura rigida e con eroi, personaggi, un dramma, ma semplicemente quello di raccontare la vita di 4-5 personaggi, 5 persone reali del posto dalla mattina alla sera. L'esempio che abbiamo preso un po' a livello cinematografico è un film fatto da un regista cubano con cui abbiamo collaborato, che si chiama Fernando Perez, e nel 2004 ha realizzato questo film che si chiama Sweet Havana, che racconta appunto la storia di racconta l'Havana attraverso 8 personaggi seguiti dalla mattina alla sera. L'idea ci è piaciuta perché questo ci lasciava liberi a noi di non scrivere una sceneggiatura e quindi di non mettere in bocca parole e emozioni alle persone, ma di registrarle con la tecnica dell'observation movie, mm-hmm. e quindi di rimanere partecipi ma anche un po' in disparte e registrare quello che avviene nella quotidianità di queste persone. Chiaramente i personaggi li abbiamo trovati alla fine, quindi un canovaccio c'è, e le ipotesi che ci siamo fatti come personaggi sono più o meno 4 protagonisti principali, che saranno un coach surfer, un ragazzo che fa parte di questa rete internazionale che condivide i propri divani e che non può né uscire da Gaza né invitare gente a Gaza, perché le frontiere che i governi internazionali che pongono agli abitanti di Gaza sono fin troppo conosciute e fin troppo evidenti. Questo ragazzo fa l'infermiere e quindi vive questa ambivalenza di stare tutti i giorni in mezzo alla tragedia e dei feriti, dei morti, ma di avere questo desiderio di apertura che cerca di materializzare attraverso l'oggetto più immateriale che ha tra le mani, cioè internet, mm-hmm. una cosa un po' che ci ha colpito. Poi ci sono altri personaggi come una pescatrice, una ragazza che sognava di diventare una grande nuotatrice, ma le vicissitudini non gliel'hanno reso possibile. Il padre è un pescatore e lei quindi fa questo lavoro per sostentare la famiglia, visto che il padre è diventato invalido, e chiaramente ha difficoltà nel svolgere questo lavoro, perché da una parte c'è l'esercito israeliano che spara sui pescatori e dall'altra c'è una cultura fin troppo maschilista che, bene o male, qualcuno di noi già conosce, che è la cultura imposta da Hamas e che quindi impedisce materialmente alla donna di svolgere questa piccola attività, che è quella di campare attraverso il lavoro della pesca. Mm-hmm. Altri due personaggi sono un giovane rapper che lavora nel padre, lavora insieme al padre nei campi profughi, e attraverso di lui potremmo seguire la cultura giovanile. È amico dei rappers, dei ragazzi che fanno la breakdance, dei ragazzi che fanno il parkour, dei ragazzi che fanno surf, che è una cosa che ci ha colpito molto, perché nell'immaginario tradizionale, certo, il surf è un modello americano con queste grandi onde alla Point Break, mentre invece anche a Gaza ci sono gruppi di ragazzi che fanno il surf, sono molto meglio limitati. E poi una blogger, una ragazza, un'altra ragazza, due figure appunto femminili e due maschili. Questa ragazza che fa la blogger, che ha attraversato un po' tutte le primavere arabe, che è un attivista che ci permette quindi di fare attraverso la sua esperienza una lettura molto più ampia di quello che è il contesto politico e sociale che si vive in Medio Oriente e a Gaza nello specifico. Questi personaggi cosa faranno? Incontreranno nella loro vita le persone che incontrano tutti i giorni, quindi il tassista, il venditore di lupini, tutti i personaggi uso il termine personaggi per essere un po' più chiaro possibile, certo. Comunque incontreranno persone che attraverso l'incontro appunto tra le varie realtà di gente che vivono a Gaza cercheremo di dare un'immagine corale di quello che è vivere a Gaza. Diciamo che è molto emblematica la copertina che per ora abbiamo del progetto, che sono le spiagge di Gaza. Gaza quasi nessuno si ricorda che c'è il mare, se non quando qualche flottiglia cerca di violare questi embarghi. Ed è emblematica proprio perché noi cerchiamo attraverso l'immagine di rompere quella costruzione di immaginifica imposta a Gaza, che ne fa un paese di cui si parla tanto ma di cui si dice veramente poco. Mm-hmm. Questo è più o meno il progetto. Senti Luca, per saperne di più in rete dove si può cercare? Su movingtogaza.invidia.net, che per ora contiene il diario di bordo della prima esperienza che abbiamo fatto appunto per un mese a Gaza, e dei piccoli contributi video, e a breve uscirà il trailer definitivo e la bozza di quella che chiamiamo canovaccio e non sceneggiatura. Bene. E su Facebook e su Twitter ci sono sempre al contatto Moving to Gaza, ci sono tutta una serie di informazioni che riguardano il progetto e non solo. Allora, ci terrete aggiornati sui prossimi passi del progetto Moving to Gaza. Nel frattempo, certo, un abbraccio e un in bocca al lupo. Grazie mille, anche a voi. A presto, ciao. A presto, ciao. Bene, questo per quanto riguarda il progetto Moving to Gaza. Abbiamo sentito Luca. Bene, restiamo in Palestina perché dopo Moving to Gaza parliamo con Francesco Merini, regista del documentario Palestina per principianti, educazione sentimentale di un bassista rockabilly, presentato all'Hai visto mai, il festival di documentario Hai visto mai. Allora, Francesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti. Allora, qual è questa Palestina per principianti? Sì, è la Palestina per principianti, cioè è un film, diciamo così, un documentario raccontato da principianti, cioè da persone non così esperte di un tema che è molto complesso, però, e che si rivolge a un pubblico appunto anche non esperto, e quindi è una Palestina raccontata un po' per tutti, anche per i ragazzi più giovani probabilmente. E il film è nato dal gruppo musicale in quale sono una batteria. Siamo andati a suonare con dei bambini di un campo profughi, la Laza Camp vicino a Betlemme, e abbiamo deciso di documentare questo viaggio e abbiamo deciso di concentrare il nostro sguardo sul bassista del nostro gruppo, che suona nel gruppo Scam, è un rockabilly, e abbiamo raccontato il viaggio dal suo punto di vista, che è un viaggio di scoperta. Poi lui, appunto, quando ci siamo trovati lì ha un po' deviato da questo laboratorio musicale con i bambini, è andato a scoprire la storia di questa famiglia che si chiama appunto Al-Azza, come il campo, che infatti prende il nome dalla famiglia più numerosa del campo. Senti, in che senso e in che misura è stata un'educazione sentimentale? Un'educazione sentimentale nel senso più largo, cioè il nostro protagonista è lì, poi è un po' tra documentario e fiction, diciamo così. Abbiamo giocato sul fatto proprio sul suo sguardo innocente, sulla sua scoperta di questa realtà, sulla sua pigrizia. Beh, insomma, abbiamo giocato un po' su com'è lui, un po' ovviamente l'abbiamo spostato, abbiamo fatto un po' di drammaturgia, diciamo, però comunque abbiamo giocato sulla sua pigrizia, sulla sua poca voglia di spostarsi da Bologna, che è la nostra città. E quindi è stato un viaggio di scoperta e di formazione. Alla fine è un romanzo di formazione, diciamo così, che appunto ha come protagonista questo bassista rockabilly Zinni. È un viaggio di formazione, un romanzo di formazione, un viaggio di scoperta, in questo senso l'educazione sentimentale. Sì, sì. Senti, Francesco, di te Francesco, qual è stata la scoperta rispetto all'universo palestino? Ma una cosa che ho capito in modo molto chiaro è che stando da qua spesso il problema viene posto, ovviamente del conflitto con Israele, le ragioni dell'uno e le ragioni dell'altro, ho capito che non ha molta importanza questo. Quello che è importante è che c'è un popolo che, io sono proprio indignato per questo ovviamente, ma c'è un popolo che subisce delle cose che non sono giuste, quindi mi è sembrato la cosa che mi ha colpito appunto come passa in secondo piano il problema delle ragioni dell'uno e dell'altro. Il problema è che non è giusto che ci siano persone che devono vivere in questo modo. Questo mi sembra la cosa che mi ha colpito, il nocciolo, è quello. Insomma, mi sono fatto una certa chiarezza su come guardare questo problema. Sì. Senti, che percorso avrà il vostro documentario? Allora, adesso uscirà in sala a Bologna. Abbiamo fatto un accordo con la Cineteca di Bologna, sarà tutti i mercoledì di novembre al Cinema Lumière della Cineteca, e appunto è stato presentato, visto mai, al festival, lo stiamo mandando ad altri festival e poi stiamo organizzando in modo abbastanza libero varie proiezioni. Siamo in contatto con associazioni che hanno interesse a mostrarlo, oppure lo stiamo proponendo a dei cinema, ce lo chiedono, e, insomma, tutti i canali. Il nostro obiettivo è diffonderlo, farlo vedere anche nelle scuole. Adesso sul Mona stiamo organizzando una proiezione, mi sembra il 3 dicembre, per le scuole. perché appunto, come dicevo, è insomma, un linguaggio molto semplice, molto diretto, e quindi abbiamo visto che può essere adatto per i ragazzi più giovani per conoscere un po' questo problema, e per cui seguiamo un po' tutti questi canali. Senti, un po' in chiusura volevo chiederti anche come è stato colto, raccolto, vissuto da chi, dai protagonisti, dai palestinesi che avete incontrato, il lavoro finito. Ma adesso siamo, a parte la protagonista femminile, diciamo così, che è stata guida, che accompagna Zimmi, questa ragazza Mirna, vogliamo provare a invitarla adesso, a Bologna per le proiezioni, ma sia tutto l'aspetto burocratico, i costi, però non ce la facciamo, ma stiamo cercando di invitarla. Ancora l'abbiamo mandato ad alcuni, ma non abbiamo ancora, diciamo, ricevuto, potuto parlare. Non abbiamo ancora delle impressioni così sì, ho capito. Diciamo definite, ancora non c'è stata occasione di guardarli insieme, parlarli, perché sì, appunto poi le difficoltà degli spostamenti, certo, però insomma contiamo di farlo. Bene. Francesco, allora ci risentiamo presto per prossime novità. Ok, grazie. Un abbraccio. A voi, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Francesco Merini, regista del documentario Palestina per principianti, educazione sentimentale di un bassista rockabilly, in programmazione a Bologna ogni mercoledì, da quanto ho capito, per tutto il mese di novembre. Visionari su Radio Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15, contatto email visionari@ondarossa.info. Abbiamo al telefono Cinzia Castania, regista del documentario Mineo Housing, che è stato presentato al Festival del Documentario di Salina, il Salina Doc Fest, anzi quell'edizione particolare che non era un vero e proprio festival, ma insomma. Cinzia, intanto benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti. Allora, Mineo Housing, di cosa si tratta? Allora, Mineo Housing è un documentario che io ho girato l'anno scorso appunto a Mineo, che è un paesino in Sicilia, in provincia di Catania, dove era stato improvvisamente aperto un centro di accoglienza enorme, dove sono stati accolti quasi 2000 immigrati nel periodo dell'emergenza immigrazione cosiddetta. Nel periodo degli sbarchi a Lampedusa? Esatto, sì, esattamente a fine marzo del 2011. Sì, sì, sì, sì, sì. Senti, come è nata l'idea di andare a filmare? Allora, io conosco molto bene quella zona perché sono nata lì vicino. Sì. E avevo saputo appunto da amici siciliani che c'era un progetto che appunto il ministro Maroni aveva insieme a Berlusconi un progetto pilota per come modello di eccellenza dell'accoglienza in Europa. Non era così imminente l'apertura, è stata molto improvvisa, io ci stavo pensando e al momento in cui ho saputo che apriva il centro sono partita immediatamente, insomma, nel giro di 4 giorni a girare, un po' così, perché mi incuriosiva, volevo raccontare cosa stava succedendo, soprattutto scoprendolo proprio dall'inizio. Ecco, questo luogo modello cosa ha mostrato ai tuoi occhi? Allora, quando sono arrivata, insomma, appunto questo, se qualcuno ha visto il film, poi il luogo è stranissimo perché è un'ex residenza dei militari USA di Sigonella, sono tipo 400 villini, un posto bellissimo in mezzo alla campagna siciliana, in mezzo a degli agrumeti, appunto la sensazione era all'inizio di grande pace, di grande tranquillità, poi piano piano però si scoprivano insomma un po' di magagne, chiaramente, perché è un centro di accoglienza aperto nel nulla, dove non esisteva nessun servizio e dove appunto i ragazzi, gli ospiti del centro, erano assolutamente isolati da tutto, a 12 chilometri dal paese più vicino, che è appunto Mineo, che è un paesetto di 4.000 abitanti, molto piccolo, insomma, non c'è nulla. Quindi di grande isolamento. Ecco, sì, e oltre l'isolamento, la vita lì all'interno come era vissuta? Ecco, oltre all'isolamento, l'altra cosa che credo si senta anche molto nel mio racconto è appunto l'idea di questo tempo che passa senza nulla da fare, insomma, le attività all'interno del centro e appunto i servizi erano assolutamente nulli, per cui i ragazzi stavano lì in attesa di questa fatidica commissione che non arrivava mai per l'analisi delle richieste di asilo, e quindi di questo tempo dilatato che trascorreva senza fare nulla, insomma, ci sono immagini nel documentario che raccontano appunto di questi ragazzi che camminano in questa statale al di fuori del centro, quindi per ore nel nulla, insomma, con attività zero, un po' abbandonati a se stessi. Senti, sentendo anche, parlando con loro, quali erano i loro immediati progetti al di là della richiesta di asilo? Allora, al di là della richiesta di asilo, i loro immediati progetti, molti di loro chiaramente avevano la speranza di ottenere dei documenti per poi poter iniziare una vita in Italia o moltissimi in generale in Europa. E moltissimi volevano raggiungere, le loro intenzioni erano raggiungere amici o familiari in Germania, in Francia, in Svizzera, chiaramente persone con delle prospettive si aspettavano di arrivare in un paese che avrebbe offerto loro delle possibilità di lavoro, come tutti, insomma. Senti, il tuo lavoro, dove sarà possibile vederlo? Intanto ti chiedo se in rete c'è un suo sito internet. O... Allora, non ancora, purtroppo, ci sarà, dovremo organizzare, ma credo da gennaio in poi, una serie di proiezioni a Roma sicuramente, e poi sono in attesa un po' di capire perché... appunto io tra l'altro faccio anche un altro lavoro che è l'aiuto regista, per cui sono lontana per mesi e in questo momento non so ancora, insomma, a parte qualche proiezione appunto da gennaio in poi, e poi spero di riuscire a metterlo anche in rete tra un paio di mesi. Benissimo, allora ci terrai informati. Va bene. Allora, un abbraccio e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao Cinzia. Grazie a tutti. Cinzia Castania, regista del documentario Mineo Housing. In collegamento con Marco Asunis, presidente della Federazione Italiana dei Circoli di Cinema, per parlare con lui degli atti appena usciti del convegno L'associazionismo culturale agli albori del XXI secolo, che si è svolto a Sassari, in Sardegna, il 29 e il 30 giugno, una due giorni. Marco, ci sei? Ci sono, buon pomeriggio a tutti. Benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Grazie a voi. Allora, l'associazionismo culturale, allora ne avete parlato in questi due giorni, cosa è emerso da questo incontro? Ma è stato un momento assolutamente importante, direi straordinario, cioè grazie al lavoro del Circolo della FEDIC, che è una delle 9 associazioni riconosciute dal MIBAC, grazie al Circolo di Sassari, quella fine di giugno i 9 rappresentanti delle federazioni si sono riunite e hanno ragionato sulle proprie prospettive, partendo da una situazione di grave crisi che ovviamente riguarda tutto il settore culturale, immagino che abbiate parlato anche di questo prima del collegamento, e che ovviamente tocca anche il settore dell'associazionismo di cultura cinematografica. Siamo partiti da questo e abbiamo scoperto che per rilanciare le nostre politiche di cultura cinematografica ci sono tutte le condizioni per avere dei punti di riferimento comuni, delle prospettive comuni che riguardano certamente il valore in sé della cultura cinematografica, ma riguardano l'istruzione, riguardano la formazione e le idee in particolare della difesa dei diritti del pubblico. Ecco, questi sono i punti centrali che sono emersi dai lavori di Sassari. Ecco Marco, queste nove realtà, intanto facciamo un passo indietro, su quale bacino di utenza contano, bene o male, se abbiamo dei dati indicativi? I dati indicativi, io partirei dai nostri dati, cioè sì, dai dati della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, che peraltro è la più antica delle federazioni, nata nel 8 novembre del 1947, quindi siamo proprio subito dopo la fine della guerra e in qualche modo siamo in un ambito di rinascita democratica del nostro Stato e della nostra Repubblica. E la nostra federazione, che ha avuto come primo presidente il padre di Paolo Pietrangeli, Antonio, regista, e poi ha avuto altre figure straordinarie come quella di Cesare Zavattini, che è stato presidente per 12 anni. Oggi attualmente noi abbiamo nell'ambito nazionale circa 150 circoli sparsi in tutto il territorio, ad eccezione della Val d'Aosta e del Trentino Alto Adige. Siamo presenti in tutte le regioni, ma particolarmente nella zona del centro-sud. E complessivamente, insieme alle altre federazioni, siamo su un ordine di oltre 1000 circoli del cinema, Cineforum, Cinecircoli, 1000-1500 circoli sparsi in tutto il territorio per decine di migliaia di soci e di operatori che lavorano nell'ambito dell'associazionismo di cultura cinematografica. Questi in sintesi sono un po' i dati. Senti Marco, anche per chi ci ascolta, andando un po' per sintesi, quali sono le maggiori difficoltà del momento e quali le prospettive che avete individuato percorribili? Diciamo che le maggiori, intanto c'è una sorta di controtendenza, cioè rispetto ad una crisi generale di tipo politico, economico, culturale che attraversa il nostro paese, devo dirvi che il mondo dell'associazionismo culturale, nello specifico quello cinematografico, non attraversa una crisi, nel senso che noi abbiamo ancora diversi circoli che chiedono di affiliarsi, e quindi questo mondo è vitale e vivo, è una cosa insita, diciamo, nell'uomo, quello di continuare ad associarsi, a incontrarsi per ragioni di propria crescita culturale. Questo ovviamente va in controtendenza rispetto alla crisi in atto, cioè rispetto a quelle che sono le conseguenze della crisi, il fatto che da parte del Ministero i finanziamenti si siano davvero ridotti a lumicino, cosa che pone in forte difficoltà tutte le federazioni. I finanziamenti si sono ridotti nell'arco degli ultimi anni fino al 50%, e quindi la cosa è davvero molto seria. Le prospettive che noi abbiamo sono da ricercarsi negli atti sassaresi di quel convegno, là dove appunto abbiamo individuato punti di vista comuni, di prospettiva politica comune. Ne cito una: la difesa dei diritti del pubblico, quelli sanciti dalla Carta di Tabor nel 1987, quindi rivolgersi al pubblico come referente specifico di una politica complessiva. E la prospettiva è quella di un lavoro comune che superi quelle che sono le differenze di carattere ideologico o religioso. Quattro sono le federazioni di orientamento cattolico, cinque sono quelle laiche. Per tanto tempo ci sono state divisioni di questo tipo, siamo arrivati al momento in cui queste differenze bisogna davvero superarle per una politica comune, insomma, che riguarda la nostra sopravvivenza. Senti, prossimi appuntamenti nazionali fruibili? Intanto è un appuntamento assolutamente importante, abbiamo cercato con tutte le nostre una sorta di vetrina dove poter presentare gli atti del convegno sassarese, ci siamo riusciti, ci troveremo insieme tutti quanti a Roma, al Festival Internazionale del Cinema di Roma, proprio a presentare gli atti a Roma, quindi li presenteremo lì, mi pare sia il 17 di novembre, ma continuano le nostre iniziative. Noi ad esempio a Cagliari avremo ospite Luigi Di Gianni, ad esempio, con Enzo Lavagnini, che presenteremo il suo libro, presenteremo una rassegna cinematografica che ricorda appunto il lavoro di questo straordinario documentarista. E quindi, insieme al lavoro quotidiano, quello che tutte le federazioni svolgono normalmente, l'appuntamento politico importante è quello romano, a cui seguiranno tutta un'altra serie di appuntamenti che noi contiamo di fare un po' in tutta Italia, proprio per presentare questi atti del convegno che noi reputiamo di un valore politico e culturale davvero straordinario. Bene, allora, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, grazie a tutti voi. A presto. A presto. Ciao. Marco Asunis, presidente della Federazione Italiana dei Circoli di Cinema, in merito agli atti del convegno intitolato L'associazionismo culturale agli albori del XXI secolo, che si è svolto in Sardegna, a Sassari, il 29 e 30 giugno scorsi. Ecco, ce l'abbiamo fatta, in collegamento con Gabriele Del Grande, co-regista del documentario In nome del popolo italiano, che sarà presentato al Teatro Valle Occupato qui a Roma martedì 6 novembre. Prima abbiamo parlato con Daniele Vicari, perché nella stessa occasione sarà presentato in anteprima nazionale il suo documentario La nave dolce, un'iniziativa importante che prevede anche la partecipazione di Ascanio Celestini. Intanto, Gabriele, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao. Allora, un documentario in cui si parla di CIE. Sì, è un lavoro che abbiamo girato a Ponte Galeria, al centro di identificazione ed espulsione di Roma, tentando di raccontare appunto in una pillola, insomma un lavoro di 6 minuti, appunto le storie di chi nei tavi oggi, appunto per un documento scaduto, finisce un anno e mezzo dietro le sbarre. Infatti è una realtà appunto così vicina, no, a Roma, ci sono altri, no, in altre città italiane, e c'è un muro di autocensura rispetto a questi posti, cioè si raccontano poco perché ormai sono luoghi che sono entrati a far parte della nostra normalità, come se fosse legittimo appunto privare della libertà, no, che il personale, che il bene primario, assoluto, che tutti noi abbiamo soltanto per una carta scaduta. Sì. Senti Gabriele, tra l'altro poco fa abbiamo parlato anche di un altro centro, a proposito del documentario Mineo Housing, che parla invece di Sicilia, di un centro per i richiedenti asilo. Ecco, com'è nato il vostro progetto rispetto a Ponte Galeria? Ma il lavoro su questi centri, sia mio che di Stefano Liberti, che è l'altro autore, no, con cui abbiamo lavorato insieme per fare questo documentario, è un lavoro che inizia anni fa, insomma, sono anni che entrambi percorriamo a ritroso le varie rotte della migrazione che appunto attraverso il Mediterraneo portano in Italia piuttosto che in Spagna o in Grecia. Io ho alle spalle anche 6 anni di attività del blog Fortress Europe, quindi il lavoro sui CIE è un lavoro che parte molto tempo indietro. questo è un tentativo appunto di lavoro, di racconto, di narrazione, forse meno giornalistico, non ci sono notizie, non ci sono troppi dati, ma ci sono appunto le storie. Sono le storie, le sensazioni di appunto di persone comuni. L'abbiamo incontrato dalle promesse delle giovanili, delle squadre di Serie A italiana, appunto giocatori senegalesi finiti appunto per un documento scaduto al CIE dopo aver giocato in squadre di Serie B come titolari, fino alle storie appunto di domenicane, donne che lavoravano come assistenti domestiche, familiari, anche loro un bel giorno prese, arrestate e portate via come se fossero criminali di chissà quale pericolosità, ma in realtà soltanto l'unica colpa che hanno è quella di un timbro scaduto su un passaporto o su un permesso di soggiorno. Senti, come siete riusciti in pochi minuti a concentrare queste storie, insomma, leggendo anche un po' la vostra scheda, la scheda del vostro lavoro, basate molto sull'effetto immagine, ecco, come siete riusciti in questo lavoro? Sì, in realtà è stato lavoro di sintesi. Il lavoro ha un po' un doppio binario, nel senso che c'è l'audio delle voci che appunto che ci raccontano appunto ogni personaggio si racconta come è finito al CIE, racconta cosa faceva prima, cosa si aspetta, come passa il periodo lì dentro, e poi ci sono immagini che invece scorrono un po' su in parallelo, diciamo, con le voci che mostrano il CIE, mostrano le gabbie, mostrano questi ambienti spersonalizzanti, disumanizzanti. È stata in parte una scelta stilistica, in parte anche un po' risultato di una censura che tutt'oggi viene praticata nei CIE, perché in Italia il Ministero dell'Interno autorizza ad entrare in questi posti, ma poi vieta la possibilità di filmare le persone in viso, anche quando c'è il consenso informato degli stessi, vieta di filmare i poliziotti che lavorano nei centri, vieta di filmare gli operatori sociali, vieta di filmare le celle dove le persone vengono detenute, per cui alla fine non i volti, mancano i volti ad esempio, no? in questo lavoro, che è stato appunto un obbligo a cui siamo stati sottoposti da parte appunto della censura imposta dal Ministero dell'Interno in Italia. In altri paesi non è così, penso alla Svizzera dove ad esempio l'anno scorso è uscito un documentario bellissimo che si chiama Vol Special, il volo speciale, di un regista a cui è stato permesso girare per 6 mesi ininterrottamente dentro un centro di espulsione in Svizzera. In Italia questo ancora non è possibile purtroppo, e questo è uno dei motivi per cui di questi posti si parla poco, è difficile entrare, è difficile raccontare quello che c'è dentro. Gabriele, ecco, al di là dell'aspetto che dicevi all'inizio dell'arbitrarietà di questa detenzione e anche di diverse caratteristiche che caratterizzano i CIE all'interno, che prima anche li hai elencati, quali sono gli aspetti che più ti hanno impressionato in questa esperienza? Ma chiaramente non sono alberghi a 5 stelle, è chiaro che le condizioni di detenzione sono scadenti, come sono scadenti le condizioni di detenzione nelle carceri italiane, insomma in tutto il sistema detentivo, ma la cosa che più colpisce in questi posti è la violenza istituzionale, no? Al di là della violenza che qualche volta può esercitare un poliziotto un po' su di testa, che magari picchia qualche persona per i comportamenti magari che vengono tenuti dentro, e questo è gravissimo di per sé, ma la cosa più grave è la violenza istituzionale, cioè il fatto che lo Stato italiano, col supporto di tutta quanta la sua opinione pubblica, abbia deciso che la libertà personale non sia più un diritto inviolabile, per cui persone che vivono in Italia da 20 anni, da 30 anni, che qui sono sposati, che qui hanno figli piccoli, persone che sono nate qui in Italia, addirittura in alcuni casi, un bel giorno qualche inceppo della burocrazia italiana, perdono i documenti di soggiorno, si fanno scadere i documenti e vengono arrestati e privati della libertà per 18 mesi. 18 mesi della vita è un anno e mezzo si perde tutto, si perde il lavoro, si perde la casa, si perde la possibilità poi di ricominciare, soprattutto se si viene espulsi in un paese che dopo 10, 15, 20 anni di assenza non è più il proprio paese. Certo. Senti Gabriele, dopo la presentazione di martedì, dove sarà possibile vedere e fruire del vostro lavoro? Ma il lavoro già si trova online, l'abbiamo subito messo online dopo l'anteprima al Festival Internazionale Ferrara, si può trovare sia su Vimeo che su YouTube, o proprio semplicemente andando su fortresseurope.blogspot.com, in home page, insomma, si può vedere, c'è anche una versione sottotitolata in inglese, sono già migliaia e migliaia di persone che appunto che hanno visto il video, che stanno facendo circolare in rete. Bene. La principale distribuzione sarà quella, insomma, via internet. Giustamente. Senti Gabriele, allora diamo nuovamente l'appuntamento di martedì al Teatro Valle Occupato, martedì 6 novembre a partire dalle ore 21, se non sbaglio. Ci sarà, oltre al documentario La nave dolce di Daniele Vicari, le letture di Ascanio Celestino e la proiezione del vostro documentario In nome del popolo italiano. Un abbraccio e ci si vede lì. D'accordo, grazie. Ciao Gabriele. A presto, ciao. Gabriele Del Grande, co-regista del documentario In nome del popolo italiano, e con lui concludiamo, anche se avremmo dovuto sentire il produttore Gianluca Arcopinto in merito al ritorno della sua Pablo, la casa di produzione. Magari recupereremo la settimana prossima, perché giovedì della prossima settimana torna Visionari, come ogni giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le trovate sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni, Visionari, gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di ieri, mercoledì 31 ottobre, le nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, la programmazione in televisione per quanto riguarda i film sul piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana tra festival e rassegne in giro per l'Italia. E poi il link per riascoltare la puntata precedente e in fondo anche tutte quelle del 2012. Alla settimana prossima.